Storie italiane. Il lago dei cigni. C'era una volta, molto lontano in una foresta, un lago chiamato il lago dei cigni. Lì viveva un solo cigno, che se ne stava silenzioso e pieno di grazia sull'acqua limpida. Il lago dei cigni, sebbene bellissimo, nascondeva un segreto. Quando il sole tramontava, il cigno si trasformava in una bellissima giovane donna. La donna era una principessa e il suo nome era Odette. Era stata maledetta da un mago malvagio chiamato Rothbart, poiché odiava i suoi modi gentili. L'unico modo per spezzare l'incantesimo era di trovare il vero amore. Odette, ancora maledetta, capisco. Non hai ancora rotto l'incantesimo? Ridi quanto vuoi. Il mio vero amore verrà sicuramente e mi salverà, Rothbart. Vero amore? Chi ti troverà in questa foresta oscura? E chi amerebbe un cigno? Sarai sempre sola qui. Arriverà. Il mio cuore dice che lo farà. In un regno, non lontano dalla foresta, viveva una regina, che era molto gentile. Aveva un figlio, il principe Siegfried, che era bello, intelligente e forte. Ma la gentilezza non era proprio il suo forte. Una sera, la regina lo chiamò da lei. Siegfried, vieni qui. Ho una sorpresa per te. Quale sorpresa potresti mai dare ad un uomo adulto? Oh, un cavallo! Caspita, mamma! Lui è davvero un cavallo medio. Dai, Siegfried! No, no, davvero, non sembra abbastanza forte, ma... Oh! Beh, a me sembra abbastanza esuberante. Forse dovresti chiamarlo Stomper. Ora ascolta, ho un'altra sorpresa per te. Siegfried vide tre bellissime fanciulle avvicinarsi gentilmente a lui. Queste sono fanciulle che sono venute per incontrarti per... Matrimonio? Ma non voglio sposarmi, mamma. E queste ragazze... A loro non importa niente di me. Vogliono solo sposarmi perché sono un principe. Siegfried, che dici? Non è così. Non voglio ascoltare. Ecco, cavallo, vediamo quanto sei forte. Andiamo da qualche parte lontano da qui. Stomper sollevò gli zoccoli in aria e poi galoppò a tutta velocità fuori dal regno. Il principe Siegfried non riusciva a controllarlo e non importa quanto ci provasse, il cavallo continuava ad andare avanti. Presto raggiunsero la foresta. Stomper si fermò di colpo e il principe Siegfried cadde su un mucchio di foglie. Spregevole cavallo, non riesco nemmeno a galoppare correttamente. Pagherai per questo. Ma mentre si voltava, vide il lago di fronte a lui. Era così sorpreso che quasi si dimenticò della sua brutta giornata. Si accasciò vicino ad alcuni cespugli e fissò il lago. Finalmente un po' di pace e tranquillità. Perché la mamma lo fa? Vuole che io sposi qualcuno che non conosco nemmeno. E poi mi dà un cavallo che neanche mi piace. Che giornata orribile! Mentre il principe brontolava per la sua brutta giornata, la principessa Odette si era nascosta dietro un albero e lo guardava. Chi è quell'uomo? Sembra essere davvero furioso per qualcosa. Tutto è orribile. Il mondo è orribile. Anche questi fiori sono orribili. Nel vederlo rovinare i fiori, Odette divenne furiosa. Ehi, non puoi farlo ai fiori? Non hanno fatto nulla per meritarlo. Il principe Siegfried rimase affascinato dalla sua bellezza. Eh? Chi sei? Io sono Odette, principessa di questo lago. Come osi venire qui e distruggere quei poveri fiori? Sono il principe Siegfried. Perché dovrei preoccuparmi di questi sciocchi fiori? Non sono sciocchi. Hanno sentimenti, proprio come te e me. Non essere d'accordo con lei! Odette mise la mano sul fiore e lo fece fiorire di nuovo. Il principe ne fu scioccato. Non aveva mai visto niente del genere. Odette si voltò verso di lui e sorrise. Perché mi stai sorridendo così? Quando aiuterai qualcuno che ha bisogno, lo saprai anche tu. Prova! Non ti farà male essere gentile. Mi stai insultando? È così sciocco. Io me ne vado. Dai, cavallo! Ehi, principe, provaci una volta. Sorriderai anche tu. Sì, certo. Il principe Siegfried iniziò a galoppare velocemente. Era molto tardi ormai. Era quasi l'alba. Sulla strada incontrò un povero vecchio. Giovanotto, mi daresti un po' d'acqua? Sono molto assetato. Acqua? Chi pensi? Proprio in quel momento la voce di Odette risuonò chiaramente nella sua mente. Ehi, principe, non è mai troppo tardi per essere gentile. Ecco, puoi prendere questa. Bevila tutta, io non la voglio. Oh, grazie, sei troppo gentile. Il principe ne fu così sorpreso che in realtà sorrise. Andò avanti di ottimo umore e presto raggiunse casa. Il giorno dopo, a palazzo, decise di essere gentile con le cameriere. Qualcosa che non aveva mai fatto. E quando vide le loro espressioni, si sentì ancora meglio. Quindi questo è ciò che intendeva. Penso che andrò a trovarla anche stasera. Così di notte sgattaiolò fuori dove si trovava il suo cavallo. Shh, sono io. Voglio andare al lago. Portami lì adesso. Cosa vuoi? Voglio dire, per favore, mi porteresti al lago, Stomper? E se ne andarono. Tornarono al lago. Odette fu estremamente sorpresa. Oh, sei tornato. Perché? Che cosa vuoi dire? Perché? Un principe non può andare dove vuole? Inoltre, grazie per avermi insegnato qualcosa di veramente speciale ieri. È un piacere. Vieni, lascia che ti faccia fare un giro. Anche tu. Oh, si chiama Stomper. Ciao, Stomper. Sei un buon cavallo. Beh, non parliamo neanche di quanto è bravo. Per tutta la notte, Siegfried e Odette risero e chiacchierarono. Gli fece vedere dei bellissimi posti. Ma la sua gentilezza e bellezza era tutto ciò a cui prestava attenzione. Ogni notte andava a trovarla e all'alba si separavano. Con il passare del tempo, tutti notarono quanto il principe fosse divenuto gentile e generoso. Figlio, ho qualcosa da dirti. Sì, mamma. Stasera tutte le fanciulle della terra saranno invitate a ballare e tu dovrai ballare con loro. Ma mamma, ti ho già detto che non amo nessuna di loro. Bambino mio, il popolo del regno non vede l'ora che il loro principe si sposi e prenda il trono come re. Domani devi scegliere una sposa. Questa è la mia ultima parola. Cosa devo fare, Stomper? Quella notte il principe ballò con tutte le belle fanciulle che erano lì. Sorrise dolcemente a loro, ma tutto ciò a cui riuscì a pensare era Odette. Il ballo durò quasi tutta la notte, ma quando finalmente fu finito, il principe sgattaiolò fuori dal palazzo. Stomper, andiamo a trovare Odette, vero? Galopparono veloci nella notte fredda, ma non sapevano che un'ombra li stava seguendo da vicino. Presto raggiunsero il lago ansimando. Odette! Perché, Siegfried? Stasera sei molto in ri... tutto bene? Odette, sono venuto qui per dirti che mi sono innamorato di te. Non riesco a smettere di pensare a te. per favore, vorresti diventare mia moglie? Oh, io non posso. Cosa? Perché no? Perché io... In quel momento il sole cominciò a sorgere e prima che Odette potesse finire la sua frase si era trasformata in un cigno davanti agli occhi del principe Siegfried. Odette, no! Cosa ti è successo? Perché sei diventata un cigno? Vedi, molto tempo fa un mago crudele di nome Rothbard mi aveva fatto un incantesimo. Ora, a causa della sua magia, sono umana di notte e un cigno di giorno. Solo il vero amore può spezzare questo incantesimo. Allora lascia che sia io a spezzarlo per te. Ti amerò profondamente. Che tu sia un cigno o un essere umano o altro. Pensi che rompere un incantesimo sia così facile? Pensi che solo dire di amare qualcuno provi il tuo amore? No, il vero amore ha bisogno di sacrificio. Tu sei pronto a sacrificarti per amore? Sì, lo sono. Farò qualsiasi cosa per lei. Molto bene. No, Siegfried, come osi fargli questo? Ah! No, Odette, svegliati, mio amore. Odette! Sciocchi! Oh, Odette, mio amore, per favore svegliati! Con un ghigno malvagio in faccia, Rothbard si voltò e iniziò a camminare. Ma proprio in quel momento, Stomper venne da dietro e lo prese a calcio. Rothbard, volando in aria, lasciò cadere la bacchetta a terra. Con tutta la sua forza, Stomper sollevò un zocco in aria e calpestò la bacchetta, spezzandola a metà. No! In quel momento, Rothbard svanì nel nulla e non fu mai più visto. All'improvviso, scintille magiche spuntarono fuori dai pezzi rotti della bacchetta. Le sue scintille volarono su Odette e Siegfried e li toccarono. Immediatamente, Siegfried si trasformò nella sua forma umana. Anche Odette tornò di nuovo alla sua forma umana e aprì lentamente gli occhi. Odette! Odette! Stai... bene? Sì, sto bene. Cosa è successo a Rothbard? Beh, diciamo solo che il nostro Stomper qui si è preso cura di lui. Il principe e Stomper portarono Odette al palazzo. Siegfried spiegò tutto a sua madre, che era così felice di vedere la bellissima principessa, e accettò subito il matrimonio. Odette e il principe Siegfried si sposarono con una splendida cerimonia. Il principe Siegfried salì al trono e il re e la gente del regno ne furono molto felici. Ma cosa ne è stato di Stomper, chiederete voi? Bene, Stomper venne nominato comandante in capo dell'esercito del re e si assicurò che personaggi del calibro di Rothbard rimanessero a miglia di distanza dal regno